Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La votazione è chiusa. Presenti 454, votati 450, astenuti 4, maggioranza 266, favorevoli 177, votati 173, non è appelli per favore, tocca per i commessi di Colombo. Grazie, la Camera approva. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è passata, dunque questa è la voce di Giachetti, deputato del PD, è passata la riforma della scuola. Qui non si sentiva più di tanto, ma in modo molto animato, diciamo, perché ci sono state manifestazioni di protesta dentro l'aula della Camera, ma d'altronde è stato tutto un percorso abbastanza difficile e accidentato, quello della riforma della buona scuola. Comunque adesso è legge, poi deve passare in Gazzetta Ufficiale, insomma è definitivamente approvata. Di questo naturalmente parleremo questa sera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, direttamente con la ministra Giannini, ministra dell'istruzione, che naturalmente è apparsa molto soddisfatta di questo fine del percorso, anche se lei dice che è l'inizio, e poi capiremo insomma in che senso. Parleremo anche della Grecia, ovviamente della Grecia ci aggiorneremo ancora, perché atteso entro la mezzanotte di oggi, vedremo se poi c'è un ulteriore rinvio, il piano da 12 miliardi del primo ministro Tsipras, del governo insomma greco, da proporre ai creditori. C'è poi questa tragedia di Roma che avete visto, magari essere un po' primo titolo di tanti siti online, che riguarda un bimbo di 4 anni che è morto precipitando nel vano di un ascensore vuoto, nella tromba di un ascensore nel la metro A di Roma. Ci collegheremo direttamente quindi con la capitale. Poi c'è una notizia che sicuramente molti attendevano, la revoca dei vitalizi ad alcuni parlamentari condannati, ex parlamentari condannati in via definitiva. In realtà per adesso sono una manciata di persone, fra queste però la sorpresa è che c'è anche Silvio Berlusconi, e pare che ci sia stata grande rabbia di Forza Italia. Ne parleremo con il giornalista Gian Antonio Stella, che sapete è ormai uso a questi argomenti. Ci occuperemo anche di meteo, il tornado che c'è stato nel Veneto, è un fenomeno che in Italia si era mai prodotto e succederà ancora, e che cosa, da che cosa scaturisce una condizione meteo di questo tipo. Insomma, ci sono tantissimi argomenti questa sera, quindi non mollate per nessun motivo, effetto notte, se avete degli impegni rimandateli, anzi chiamate anche amici e conoscenti e parenti per ascoltare questa sera effetto notte, perché c'è tantissima roba, ci sono tantissime notizie da raccontare. Una cosa che vorrei sottolineare è questa. Ne parleremo anche dopo, però notizia di oggi è che c'è un boom di delitti d'onore in Gran Bretagna. Vittime naturalmente le donne sono a migliaia, pensate, dal 2010 11.000 donne uccise da uomini per delitti d'onore. È una pratica fra alcune comunità asiatiche nordafricane in Gran Bretagna, ma non solo, alzano il velo sul silenzio anche le donne iraniane e curde residenti in Gran Bretagna. Fate un calcolo, 11.000 donne dal 2010 fino a oggi, quanto fa 11.000 diviso 5? Provate a fare questa divisione, è una cifra impressionante. Se questa non è una guerra, che cos'è? Gli uomini si interrogano su questo fenomeno. Intanto, qualsiasi siano le vostre opinioni sui vari fatti di oggi, ci sono i messaggi, se volete, al 349-238-6666, che potete inviare, 349-238-6666, oppure, come sempre, lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Scuola, la riforma è legge, tra le proteste pronti i ricorsi. Renzi sottolinea su Twitter le 100.000 assunzioni per la ministra Giannini, stasera sarà effetto notte, è solo l'inizio. Grecia tiene pronta un piano da 12 miliardi con nuove tasse e riforme, fiducia dai mercati, le borse su. Economia, allarme del Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale rallenta, migliorate le stime per l'Italia, ma per l'Ocse l'Italia è ancora maglia nera in Europa per l'occupazione giovanile. Vitalizi sono stati revocati a 8 ex senatori, tra cui anche Silvio Berlusconi. Per protesta Forza Italia ha abbandonato i lavori dell'ufficio di presidenza. Mafia Capitale, secondo la relazione del prefetto Gabrielli, il comune della capitale non va sciolto, ma il sindaco Marino è stato debole. Tragedia a Roma, un bimbo di 4 anni muore nel metro cadendo nella tromba dell'ascensore. Una bimba nel mare di Sardegna è stata uccisa da un'elica, si cerca una barca in fuga. Tunisia, il ministro degli esteri britannico avverte i cittadini inglesi, lasciate il paese nordafricano, nuovi attacchi terroristici sono altamente probabili nel paese. Orrore in Gran Bretagna, boom di delitti d'onore contro le donne, sono stati 11.000 dal 2010. Tennis, a Wimbledon Serena Williams batte la Sharapova in finale, sabato trova la Muguruza che la eliminò a Parigi nel 2014. Partiamo quindi dalla riforma della scuola, che oggi, vi dicevo, è diventata definitivamente legge. Alla Camera il via libera finale è stato dato con 277 voti favorevoli, 173 contrari. A salutare il varo del procedimento, un tweet del Presidente del Consiglio Renzi, che ha detto: 100.000 assunzioni, più merito, più autonomia, la buona scuola è legge. Poi era stato preceduto da un tweet anche della Ministra Giannini, che ha sottolineato che questo è solo l'inizio e, come vi dicevo, sarà tra poco qui a effetto note. Vi segnalo che domani, tra l'altro, il Sole 24 Ore avrà una guida alla nuova scuola, punto per punto che cosa cambia per insegnanti e studenti. E sono in Lombardia, Veneto e Marche gli studenti migliori in matematica e in italiano, lo dice il rapporto Invalsi, che ha attestato oltre 2 milioni di alunni dalle primarie alle superiori. Fra i dati positivi, la conferma che gli istituti tecnici del nord forniscano una preparazione al pari dei licei in matematica a quella che riguarda i ragazzi di seconda generazione, cioè ragazzi figli di stranieri ma nati in Italia. Stanno diventando sempre più bravi questi studenti, raggiungendo gli italiani. E oltre alla scuola ci sono però altri terreni di confronto tra il governo e i sindacati: gli incidenti sul lavoro e le pensioni. Numeri quelli diffusi dall'INAIL che fanno riflettere e che chiedono uno sforzo sempre maggiore delle parti coinvolte, ma il percorso intrapreso va nella giusta direzione. Gli incidenti mortali si sono infatti dimezzati negli ultimi 10 anni, erano quasi 1300 nel 2004, sono scesi a 662 lo scorso anno, in diminuzione anche gli infortuni. La situazione sta migliorando, ma non basta, spiega il ministro del lavoro Poletti. Per quanto le cose possano migliorare, fino a quando avremo un incidente, un infortunio, un elemento di problematicità, vorrà dire che abbiamo ancora qualcosa da fare. Innalzamento dell'età lavorativa e precariato pongono nuovi interrogativi sul tema salute e della sicurezza, aggiunge il ministro. Altro capitolo, quello delle pensioni. Polemica a distanza tra il presidente dell'INPS Boeri e il segretario della CGIL Camusso. Per quest'ultima l'introduzione di maggiore flessibilità in uscita utilizzando il sistema contributivo penalizzerebbe le pensioni più basse. Non è vero, replica Boeri, che dice: l'allarme della Camusso è un'invenzione di sana pianta, forse per screditare le nostre proposte. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda l'economia, il rapporto appena pubblicato dall'OCSE rileva che le condizioni del mercato del lavoro stanno migliorando in molti paesi dell'area OCSE, ma in modo che presenta ancora delle forti disparità. Per quanto riguarda l'Italia, la disoccupazione ha iniziato a scendere rispetto al picco del 2014, resta però superiore alla media dell'1,3% e del 6% rispetto al periodo pre-crisi in Italia. La disoccupazione giovanile è al 42,7% e la disoccupazione di lunga durata resta inaccettabilmente alta, dice l'OCSE. E a questo rapporto dell'OCSE fa poi eco l'analisi del Fondo Monetario Internazionale, che si dichiara preoccupato dei riflessi della crisi della Grecia, un rischio di contagio che però il governo italiano ritiene contenuto. Quanto ai mercati ballerini, soltanto ieri abbiamo parlato per esempio della bolla cinese, domani col Sole 24 Ore ci sarà una guida per i risparmiatori, che è il taccuino degli investitori, guida pratica per fronteggiare la nuova estate di incertezza dei mercati. E per la crisi greca è atteso, vi dicevo, nelle prossime ore il piano di riforma che Atene presenterà ai creditori in vista del decisivo Euro Summit di domenica, un piano che dovrebbe arrivare entro la mezzanotte, ma poi per capire come stanno andando le cose ci colleghiamo più tardi con Atene. Siamo alla cronaca italiana con una tragedia accaduta a Roma e della quale bisogna ancora capire i contorni. Un bambino morto precipitando nel vano ascensore della metro A. A Roma per noi c'è Francesco De Remigis. Ciao Francesco. Sì, buonasera, un lutto non solo per Giovanni e Francesca, i genitori del bimbo di 4 anni vittima dell'incidente, ma per tutta la città. Così il sindaco Ignazio Marino, uscendo dalla metro Furio Camillo intorno alle 20:15 della metropolitana di Roma, dove sono terminati poco fa i primi accertamenti dei carabinieri e sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere di sicurezza, proprio per fare chiarezza su una dinamica tutt'altro che definita. La procura procede per omicidio colposo, un fascicolo contro ignoti, ma è l'assessorato alla mobilità ad accusare direttamente uno degli addetti dell'ATAC intervenuti sul posto, parlando di errore umano. Sulla dinamica filtrano dei primi dettagli: la madre con il bambino nell'ascensore sarebbe stata in stato di shock quando si è bloccato e quindi, gridando aiuto, ha stimolato l'intervento di uno degli addetti dell'ATAC, che si è sostanzialmente improvvisato soccorritore, prima cercando di avvicinare l'ascensore in qualche maniera e poi azionando un secondo ascensore presente qui a Furio Camillo. In questa maniera si è tentato un trasbordo riuscito per la madre, ma nell'intercapedine, c'è chi parla invece di una botola, tra i due spazi degli ascensori è caduto invece il bambino di 4 anni. È un volo di oltre 10 metri che non gli ha lasciato alcuno scampo, purtroppo è morto sul colpo. La cittadinanza qui a Furio Camillo ha atteso il sindaco Marino, particolarmente tesa la situazione, molti improperi per il primo cittadino, perché qui a Furio Camillo tanti testimoni hanno parlato di malfunzionamento di questi ascensori da lungo tempo. Un'ultima nota, quella dell'assessorato alla mobilità arrivata nel tardo pomeriggio, parla di improvvisazione sostanzialmente del personale ATAC che non ha atteso l'intervento della ditta di manutenzione degli ascensori che garantisce entro 30 minuti l'intervento, quindi ancora molti dettagli da chiarire su questa tragedia odierna. Grazie Francesco De Remigis, è una grande tragedia, anche se Ignazio Marino forse sta diventando un po' il capro espiatorio ultimamente di tante cose, ma insomma adesso parliamo invece di un altro caso di cronaca che riguarda una bambina morta in Sardegna di 11 anni. La barca che avrebbe colpito con l'elica questa bambina di Assemini, uccidendola, si è allontanata subito dopo il fatto. Stanno tentando di rintracciarla i carabinieri di Cagliari a bordo di una motovedetta impegnata nella perlustrazione delle coste sudoccidentali della Sardegna, dove è avvenuto appunto la tragedia. Siamo alla politica con i vitalizi. Il Senato ha revocato il vitalizio a 8 ex senatori condannati al titolo definitivo per reati gravi. Tra i nomi ci sono anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Secondo quanto si è appreso, Forza Italia ha abbandonato i lavori dell'ufficio di presidenza. Nel mirino di Montecitorio ci sono altri 346 ex deputati, poi vi dicevo ne parleremo con Gian Antonio Stella, anche su questo argomento potete fare i vostri commenti. All'estero, Tunisia, il Foreign Office, cioè il Ministero degli Esteri britannico, ha rivolto un avvertimento a tutti i cittadini della Gran Bretagna presenti in Tunisia di lasciare il paese perché c'è un'alta probabilità che ci siano nuovi attentati. E poi, rimanendo in Gran Bretagna, vi dicevo, questo boom di delitti d'onore, vittime molte donne, sono 11.000 dal 2010, pesano i nuovi britannici cosiddetti, una pratica che alcune comunità asiatiche, nordafricane, ma non solo, operano, alzano il velo sul silenzio. Anche donne iraniane e curde che vivono in questo paese, omicidi, percossi, sequestro di persona, spesso per matrimoni imposti, sono i reati più frequenti. È stata chiesta una strategia nazionale per il contrasto del fenomeno. Anche su questo vorrei le vostre riflessioni al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Poi di nuovo in Italia, adesso con il maltempo, quartieri distrutti, case scoperchiate, danni alle ville storiche. In Veneto, sapete, ieri c'è stato un tornado e si fa tanto la conta dei danni. È stata una bomba, cioè un'esplosione totale, si sono viste volare auto per decine di metri, noi non abbiamo mai visto una roba del genere. Così il governatore del Veneto Luca Zaia descrive la tromba d'aria che ieri intorno alle 17.30 si è abbattuta come una furia su un tratto della riviera del Brenta nel veneziano. Un commerciante di 63 anni di Dolo, Claudio Favaretto, è morto dopo che il vento ha sollevato la sua auto e poi l'ha fatta schiantare all'altezza di Mira lungo il fiume. Decine i feriti, di cui due in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I danni ammonterebbero a diverse decine di milioni. Si è trattato, dicono gli esperti, di un tornado di categoria EF4, tra i più intensi in Veneto, più forte di quello che colpì il Trevigiano nel 2009. Fenomeni estremi contro cui il Veneto dovrà cautelarsi nei prossimi anni, come spiega Nico Schiodetto, meteorologo di Trebimeteo. C'è una zona appunto di convergenza tra venti di scirocco dell'Adriatico con aria più fredda in discesa delle Alpi e fa sì che la zona tra Treviso, Padova e Venezia spesso si formino questi tornado. Va analizzata bene la situazione con sistemi di allarme attraverso SMS oppure sirene come negli Stati Uniti, perché la situazione nei prossimi anni potrebbe essere l'insegna di questi fenomeni estremi. Il governatore Zaia, che ha decretato lo stato di crisi, ora attende quello di calamità dal governo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma siccome abbiamo un esperto di tornado, il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, che li ha rincorsi anche negli Stati Uniti, non è che li rincorsi troppo e quelli fuggendo sono arrivati poi da noi in Italia, Paolo? Buonasera Roberta, guarda, ciao. Ti dirò che purtroppo in realtà Zaia dice che non ha mai visto una cosa del genere, invece il Triveneto è una delle zone d'Italia maggiormente interessate da questi fenomeni anche in un recente passato. Tu figurati che il tornado più potente che sia mai stato registrato nell'intera Europa si è verificato nel 1930 tra Treviso e Udine, quindi proprio a nord-est, e probabilmente molti abitanti del Triveneto ricordano anche un tornado che nel 1970 ha colpito la Laguna Veneta con 30 36 vittime, ribaltando anche un battello in laguna. Quindi in effetti, come spiegava il mio collega Chiodetto, la zona è tra le più calde in Italia. La preoccupazione è che questi fenomeni nei prossimi anni si presentino con maggior frequenza per questi cambiamenti climatici che ormai sono in atto e che stiamo registrando e che stanno intensificando i fenomeni meteorologici. Quindi ci sarà da pensare anche a una rete di allerte, come suggeriva il mio collega, tipo quella americana. Grazie Paolo Corazzon, ci sentiamo domani, sperando nel bel tempo. Serata. Ciao sì, Paolo. Per lo sport, al Tour de France, la maglia gialla di leader della classifica generale va a Chris Froome, quindi la lascia il tedesco Tony Martin, e per il tennis sarà tra la spagnola Muguruza e la numero uno al mondo Serena Williams la finale donne di Wimbledon sabato. Ora io direi, voi continuate a scrivere i vostri messaggi, ringrazio Alessandra al 349-238-6666, continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete commentare la scuola, i vitalizi revocati ad alcuni ex parlamentari condannati in via definitiva e anche questa notizia di un boom di delitti d'onore hanno provocato la morte di 11.000 donne dal 2010 a oggi in Gran Bretagna. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, allora vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti, voi continuate con i vostri commenti, tra poco sentiremo la ministra Giannini, potete commentare questa riforma della scuola al 349-238-6666, numero per i messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Le notizie sono appunto che la buona scuola è diventata legge oggi, anche tra le proteste di piazza e dell'aula, ma c'è stato il via definitivo con soddisfazione soprattutto di Renzi e della ministra, sentiremo Giannini, poi la Grecia che è pronta a un piano da 12 miliardi che dovrebbe presentare entro mezzanotte, poi ci colleghiamo con Atene, poi abbiamo appena parlato del dramma a Roma di questo bambino di 4 anni che è precipitato in un ascensore del metro. Intanto in Sardegna, nel mare di Sardegna, è morta una bambina tranciata da un'elica di un motoscafo e pare che la barca sia stata, il Natantes, è stato rintracciato e viene scortato a Cagliari. E oggi protagonista, come avete sentito, della giornata e sicuramente almeno per quanto riguarda il nostro paese, la riforma della scuola, il disegno di legge denominato La Buona Scuola, è diventato legge. C'è stato il via libera definitivo alla Camera con 277 voti favorevoli, 173 no, 24 dei democratici non hanno votato. Tra i contrari ci sono stati Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e SEL. 5 dei democratici hanno votato no e si sono astenuti Bersani, Speranza e Cuperlo, e ci sono stati anche i sì di 4 verdiniani, di 4 seguaci di Verdini di Forza Italia. Poi ovviamente, come da diverso tempo, proteste in aula e anche proteste in piazza. Alla Camera ha protestato Lega, SEL e Movimento 5 Stelle. Sentirei proprio un pezzettino della protesta inscenata dal Movimento 5 Stelle. Vogliamo quindi ricordarveli questi articoli della nostra Costituzione, a voi odierni assassini della scuola pubblica, a voi che avete perso l'ennesima occasione per non oltraggiare il lavoro dei nostri padri costituenti. Articolo 3. Hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica. Insomma, hanno ricordato 3 articoli della Costituzione perché ritengono che ci siano degli aspetti incostituzionali della legge. Renzi, presidente del Consiglio, su Twitter naturalmente immediatamente ha scritto 100.000 assunzioni, più merito, più autonomia, la buona scuola è legge. E anche la ministra Giannini, ministra dell'istruzione, ha twittato la buona scuola è legge. Sì, di Montecitorio, non è un atto finale ma un atto iniziale di un nuovo protagonismo della scuola. E naturalmente in collegamento la ministra Stefania Giannini, che ringrazio. Buonasera ministra. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi un nuovo protagonista della scuola, un inizio da settembre, quindi che cosa succede nelle aule italiane? Perché sa che molti al di fuori non hanno ben compreso, appunto, tra emendamenti, tra invece tener duro su certe posizioni, le proteste fuori, ha spaccato sicuramente il mondo della scuola, poi magari ne parleremo. Ci dice i punti principali? Ma diciamolo con semplicità, perché gli obiettivi sono ambiziosi ma anche semplici: dare finalmente un'autonomia responsabile alla scuola italiana con risorse fresche, sono 4 miliardi che questo governo assegna strutturalmente in più al mondo della scuola, con gli insegnanti che mancavano e che noi assumiamo subito a partire da quest'anno e che potenzieranno l'offerta formativa per gli studenti, con la messa in evidenza di competenze che servono ai nostri ragazzi e che non possiamo lasciare solo a quei ragazzi che per ragioni personali, familiari, possono farlo fuori dalla scuola. La lingua straniera, dico la prima cosa più evidente. Tutto questo mette in moto una scuola che naturalmente ha nelle sue stesse mani, a questo punto senza più alibi, la possibilità di continuare a migliorare, perché guardi, dire la buona scuola l'abbiamo detto fin dall'inizio, ma voglio ripeterlo proprio oggi, che almeno per noi della maggioranza e del governo è una bella giornata, non significa dire che la scuola che ha l'Italia è cattiva, ma non è buona dappertutto, non è buona, i 5 Stelle hanno citato la Costituzione, ma dovrebbero anche ricordarsi che abolire i concorsi nella scuola e lasciarli taciti per decenni non è rispettare la Costituzione, dovrebbero ricordarsi che avere risultati dei test invalsi, quindi la misurazione delle competenze linguistiche e scientifiche dei nostri studenti con diseguaglianze incredibili tra le diverse regioni, non è rispettare la Costituzione, non è dare quelle pari opportunità e quel superamento degli ostacoli che devono rendere i cittadini uguali e liberi di apprendere, liberi di avere un diritto all'istruzione uguale dappertutto. Noi cominciamo con questo processo, è un processo lungo, un processo che richiederà la collaborazione del mondo della scuola, ma anche delle famiglie, ma anche degli studenti. Io sono convinta che quando si cominceranno a vedere le cose concrete subito, ne dico una per tutte perché è anch'essa fondamentale, un'alternanza scuola-lavoro su cui alcuni paesi come la Germania, la Svizzera e i paesi del nord Europa hanno scommesso da 20 anni e che ha risolto molti dei problemi drammatici della disoccupazione giovanile, su cui abbiamo messo 100 milioni all'anno, rinnovo dei laboratori e 400 ore di alternanza per tutti i ragazzi della scuola superiore tecnica e 200 per quelli dei licei. Ecco, quando avviene questo significa non aziendalizzare come strumentalmente e impropriamente si è detto da parte delle opposizioni o della protesta di piazza, ma significa dare una vera opportunità ai nostri studenti mancanti nel nostro sistema. Queste sono le cose concrete, tutto sommato innovative, ma non, voglio dire, non scoperte da noi, non ancora paradossalmente inserite nel nostro sistema educativo. Ministra Giannini, allora si parla subito di assunzioni in blocco da settembre 2015, quindi tra poco di 100.701, anche quell'uno, precari storici, più circa 2.000 idonei del concorso dell'ex ministro Profumo del 2012, no? Queste sono le assunzioni da settembre. Secondo lei, a parte poi le cose che ha elencato, perché questo provvedimento ha creato anche tanta protesta, ha spaccato comunque il mondo della scuola? Si è fatto contro, io credo che le riforme non si fanno né contro né con, si fanno per. Noi abbiamo fatto una riforma perché la scuola italiana, per la scuola, perché possa progressivamente avere gli strumenti per il miglioramento del successo formativo dei nostri ragazzi, della loro formazione anche intellettuale, culturale, perché insomma la scuola deve fare soprattutto questo, particolarmente in questa società molto mutevole e complessa. Perché c'è stata questa reazione? La protesta è sempre organizzata ed è sempre più chiassosa, lo dico con tutto il rispetto, perché gli strumenti sono storicamente quelli della piazza, quelli della manifestazione, rispetto al consenso che è individuale e silenzioso. Io non credo che nella società italiana, anche in questo lungo e complicato dibattito, si sia guardato a questa riforma con ostilità, intendo anche al di fuori, ma anche all'interno del mondo della scuola, che non è solo quello degli insegnanti, è quello delle famiglie, è quello degli studenti, è quello del territorio di cui la scuola, almeno nella nostra visione, è baricentro. Certamente il mondo dei precari, vogliamo dirlo con semplicità e in sintesi, anche se mi creda è un'operazione quasi impossibile, significa andare a toccare un mosaico composto da centinaia di migliaia di caselle in cui per anni si è accettato da parte dei governi il principio che meglio non toccarlo perché se ci mette il dito ti bruci, perché comunque se non vuoi fare della scuola un ammortizzatore sociale, e credo che nessun governo debba e voglia fare questo, se vuoi però garantire il diritto alla stabilità didattica e alla continuità didattica nelle scuole e il diritto alla stabilità di vita di chi sceglie e riesce a fare l'insegnante come mestiere, a un certo punto devi fare delle scelte. Noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto chiudiamo definitivamente queste benedette graduatorie a esaurimento che erano state definite così ma sono accese da decenni, e cerchiamo di riaccendere subito il meccanismo che la Costituzione prevede, il concorso nazionale, e non lo facciamo come è avvenuto l'ultima volta, 10.000 posti, 12.000 posti per 350.000 candidati, lo facciamo con decine di migliaia di posti, ora non le dico il numero perché poi se cambia una cifra, ma intorno a 60.000 bandito quest'anno, per una platea di abilitati che non supererà i 200.000 e che riconoscerà nel concorso stesso i titoli e il servizio di quei precari che hanno servito la scuola italiana e che hanno un diritto costituzionale di avere l'opportunità ora di essere assunti. Mi pare una scelta, forse anche discutibile per alcuni aspetti, perché si poteva non fare il concorso, le opposizioni hanno chiesto un piano pluriennale, cosa voleva dire? Diciamolo con chiarezza, voleva dire bloccare la possibilità di accesso per i giovani per altri 10 anni. Vogliamo fare questo? Noi non lo vogliamo fare, noi vogliamo dare, pagare per quanto possibile il debito col passato, ma aprire un credito col futuro. Ministra Giannini, lei sa che a parte questa questione delicata delle assunzioni, uno degli aspetti che più ha suscitato proteste e malcontento è questa della figura del preside, super preside, che è stato definito in vari modi, insomma, per il rischio, dicono, non tanto che faccia delle scelte meritocratiche ma discriminatorie o clientelistiche. Ascolti, chi dirige una struttura, il preside in Italia non si chiama più preside ma si chiama dirigente scolastico, non perché si è svegliato un ministro e capricciosamente ha cambiato idea, ma perché c'è una legge dello Stato che gli dà esattamente questa funzione, ed è una legge che è in vigore da 16 anni per l'esattezza. Allora, dirigente scolastico significa una persona che deve dirigere un meccanismo complesso come quello della comunità educante a cui affidiamo ogni mattina i nostri figli, significa una persona che deve poter scegliere e decidere naturalmente col coinvolgimento collegiale della sua comunità, e questo disegno di legge gli fa fare questo, però mi perdoni, fa fare una cosa in più che finora non è stata fatta e che cambierà profondamente la cultura, anche il rapporto tra dirigenti, insegnanti e famiglie, cioè valuta il risultato di queste scelte, valuta gli insegnanti ma valuta anche il dirigente scolastico, e noi abbiamo già iniziato con la messa a punto del sistema di valutazione del mondo della scuola. Allora, ogni scelta può essere discriminatoria, può essere opaca, può essere, può anche sfuggire al doveroso controllo di chi ha il dovere di controllare i sistemi complessi, e quello dell'istruzione è uno dei più complessi, se e soltanto se elude ogni forma di valutazione, e questo è quello che è lo stato attuale della scuola, quindi noi facciamo esattamente il contrario. Poi sa, e la dico tutta, il preside sceriffo è uno slogan fantastico, quindi io, chi l'ha inventato, mi complimento e dico l'hanno usato finora, l'avrei fatto anch'io forse in quella posizione, ma parlano di un altro modello, non parlano di questo modello, la chiamata diretta è un'altra cosa, è un principio che aveva proposto un governo di centrodestra, lo ricordo con molta chiarezza, nella legge Aprea, e significava assumo gli insegnanti direttamente, no, noi li assumiamo col concorso e quando sei assunto, non è vero come ha scritto un giornale quotidiano per bocca di un'intervista a un insegnante evidentemente male informata, che si sta a scuola 3 anni e poi si è, cioè queste sono follie, sono cose inesistenti. Allora ci vuole anche un'operazione verità a questo punto. Ministra Giannini, ultima domanda, incontrerete poi i sindacati, perché il Presidente del Consiglio Renzi ha detto che a luglio forse avreste incontrato i sindacati, o la questione? Ma io li ho sempre incontrati in tutti questi mesi, abbiamo avuto insomma anche, li ho incontrati da settembre, pensi lei, quindi poi abbiamo fatto anche gli incontri quelli nella sala verde, diciamo, con i sindacati confederali nazionali e non solo quelli di settore, ma Io invito in maniera esplicita le forze sindacali che credono nell'autonomia scolastica a non sprecare questo patrimonio che è un'opportunità, mi creda, inedita per il nostro paese e non facile da attuare in questi tempi ancora molto avari, ancora molto complicati. Quindi penso che ci sarà un confronto che ci porta a costruire insieme il percorso che, l'ha detto lei all'inizio, lo ripeto, parte oggi, non si conclude oggi. Ministra Stefania Giannini, allora io la ringrazio, le auguro lei. Buon lavoro, ci risentiamo magari a settembre. Grazie. Quando riparte tutto. Buona serata. Grazie mille. Buona serata. Di lasciarci adesso per una pausa i vostri messaggi, dice questo ascoltatore Erminio da Bergamo: da moderato quale sono sempre stato, dico che questa riforma della scuola consolida il mio sentimento di schifo per questa compagnia di governo e per il nostro presidente del consiglio. Erminio, però non mi ha dato dei motivi. Poi Mauro Gandolfi scrive: qualche sindacalista contestatore di questa riforma, della quale potrebbe spiegarmi come mai nessuno della scuola, scusate, potrebbe spiegarmi come mai nessuna di queste riforme 10 fino ad ora è andata bene, tutti i governi che le hanno proposte erano tutti ignoranti, solo i contestatori sindacali hanno avuto sempre ragione, dice. E poi Angelo scrive, chiede alla ministra se può essere normale giudicare un alunno al mattino e al pomeriggio il contrario, l'alunno giudica l'insegnante. Che vergogna, perché in questa commissione valutante, oltre al preside del consiglio, il collegio degli insegnanti, ci dovrebbe essere anche uno studente. Però dopo parleremo invece dei vitalizi, è giusto una pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Buonasera Roberta, scrive Luca al 349-238-6666. Guarda che per vedere matrimoni combinati, donne maltrattate, ignoranza, non bisogna per forza pensare ai paesi arabi, la Sicilia e la Calabria non scherzano, te lo garantisco, peggio del Medioevo, scrive così Luca. E poi invece un altro ascoltatore, Roberto da Milano: gli 11.000 delitti d'onore in Inghilterra, vittime le donne, 11.000 in 5 anni, dice, scommetto che al 90% sono stati commessi da simpatici islamici, in realtà sono comunità asiatiche, nordafricane, iraniane, curde, ma vi assicuro, in Italia lo sapete che il numero è sempre intorno ai 200 l'anno, comunque, proprio che non è un mondo per donne questo, con uomini che hanno ancora questa testa, questa mentalità proprietaria di delirio di onnipotenza sulle donne. Comunque adesso vi ricordo le notizie principali e tra poco parleremo di tutt'altro tema, parleremo di vitalizi. La riforma della scuola in legge, tra le proteste pronti i ricorsi, Renzi sottolinea su Twitter le 100.000 assunzioni per la ministra Giannini, stasera è stata qui a Effetto Notte e ha detto è solo l'inizio, Grecia tiene pronta un piano da 12 miliardi con nuove tasse e riforme che dovrebbe arrivare entro mezzanotte, vitalizi, ne parleremo tra pochissimo, tragedia a Roma, un bimbo di 4 anni muore nel metro cadendo nella tromba dell'ascensore, una bimba del mare di Sardegna è stata uccisa da un'elica, orrore in Gran Bretagna, boom di delitti d'onore contro le donne, sono stati 11.000 dal 2010. Affrontiamo una questione, possiamo dire, annosa da una parte, ma anche molto popolare e comprensibilmente quando si tratta di privilegi di un certo tipo, quella dei vitalizi agli ex parlamentari che sono stati condannati in via definitiva dopo la determinazione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, battaglie di associazioni anche dei presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso dello scorso maggio, che fissava i criteri questa determinazione. Oggi gli stessi organismi hanno provveduto a stabilire quali deputati, senatori dovranno allora dovrà essere applicato lo stop dei vitalizi e la sorpresa riguarda il Senato. Non avranno più il vitalizio l'ex premier Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e altri 6 senatori condannati con sentenza definitiva, tra questi, tra i più noti, diciamo, Vittorio Cecchi Gori e Pasquale Squittieri. E poi invece tra i deputati, gli ex deputati oggetto della norma alla Camera, ce ne sono 10. Hanno votato a favore PD, AP e SEL, Forza Italia è uscita senza votare e anche Lucio Barani per GAL ha protestato, così come Lega e Movimento 5 Stelle invece si sono astenuti. Ricordo che Silvio Berlusconi, l'ex cavaliere, è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per frode fiscale a 4 anni di reclusione, in cui 3 coperti da indulto. E poi diciamo che la polemica più forte si è scatenata proprio su di lui, che proprio ieri ha avuto questa condanna dal Tribunale di Napoli a 3 anni per la compravendita di senatori, e quindi si tratta di un'altra doccia gelata. Ne parliamo con Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere della Sera, nonché autore di libri memorabili come La Casta insieme a Sergio Rizzo, e di lì forse è iniziata anche questa attenzione della pubblica opinione su questi argomenti. Ciao Gian Antonio. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Ti sembra un buon risultato, anche se so già che il Movimento 5 Stelle non è contento perché dice che è proprio una minoranza di sfigati su almeno 1543 ex deputati che stanno percependo ingiustamente, dicono, il vitalizio. Beh, allora, la posizione del Movimento 5 Stelle ha una sua logica. Io sono d'accordo su questo, cioè è proprio il vitalizio in sé che non va. Non lo dico io, lo diceva nel 1950 in un articolo su Il Sole, non Il Sole 24 Ore, Il Sole, quello di allora, Don Sturzo, Don Luigi Sturzo, che diceva che non bisognava assolutamente arrivare a dare i vitalizi ai parlamentari, altrimenti sarebbe diventata una casta, e fu lui il primo a usare la parola casta, a dispetto di quanto pensa l'onorevole Massimo D'Alema, che pensa di essere state le Brigate Rosse per poter polemizzare su questa parola. Sturzo ce l'aveva ben chiara, io sono d'accordo. Sarebbe stato più corretto fino all'inizio, e quando passerà questo principio sarà sempre troppo tardi, pagare i contributi figurativi a quanti vengono eletti. Faccio per capirci. Uno fa il giornalista e viene eletto. In quegli anni la Camera o il Senato pagano i contributi che avrebbe pagato se avesse continuato a fare il giornalista. Uno fa l'avvocato, Camera e Senato pagano i contributi che avrebbe pagato facendo l'avvocato, uno fa l'operaio, eccetera, eccetera. Avendo impostato male fin dall'inizio questa roba, è fuori discussione che nessuno ha pagato, visto che parliamo di contributivo, retributivo, già, nessuno si è pagato davvero la propria pensione, ma nel modo più assoluto, tant'è vero che il rapporto fra contributi versati e pensioni erogate, quando ce ne siamo occupati io e Sergio, era di 1 a 11, cioè un euro che entrava, 11 che uscivano. E in questa situazione qualunque ente mutualistico sarebbe andato a cartoni. Detto questo, c'è questo secondo aspetto, cioè la sospensione, anzi la revoca delle pensioni ai condannati in via definitiva. Su questo io penso che alla fine la magistratura darà torto, purtroppo secondo me, da alcuni punti di vista, però ci sono delle buone ragioni per fare ricorso a questi provvedimenti. Non credo che resisteranno ai verdetti della magistratura, perché il principio è quello, cioè loro hanno pagato dei contributi ingiusti, una situazione ingiusta, profondamente, come dire, privilegiata rispetto a tutti gli altri italiani. Però non è che un impiegato di banca viene preso per pedofilia, gli viene ritirata la patente, la pensione, e l'INPS smette di pagargli la pensione. Non è così. Non è così, ed è giusto che non sia così. Un punto è l'aspetto penale, e un altro punto è l'aspetto previdenziale. Dentro questi problemi c'è un ulteriore problema, e cioè che troppo spesso, per quanto Berlusconi se le sia tirate, ma sia andato a cercarsele spesso, è fuori discussione che l'impressione che con lui ci sia, come dire, accanimento, un'attenzione al rispetto della legge, in altri casi non c'è, è sotto gli occhi di tutti. Che dentro tutto questo ci sia poi anche un surplus di indignazione popolare contro quelli che ricevono vitalizio dopo essere stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione è altrettanto giusto e comprensibile, è sacrosanto, però dal punto di vista squisitamente legale non so se possa tenere, perché se no dovrebbe passare anche il principio che se un pensionato delle ferrovie, un avvocato in pensione, un giornalista in pensione, mette le mani su un bambino o gli revochi la pensione, mi sembra insensato, non credo che possa reggere poi al giudizio della magistratura. Comunque stiamo a vedere. Chiaro Gian Antonio Stella, abbiamo un po' capito come potrebbe andare a finire, intanto ti ringrazio. Grazie Gian Antonio. No, grazie a voi. Buona giornata a tutti. Ciao, buon viaggio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo guardando ancora i vostri messaggi, tanti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Abbiamo però molte cose ancora da raccontarci. Intanto vi ricordo brevemente le notizie più importanti, che sono in primo piano la buona scuola, che da oggi è legge. C'è un ascoltatore che dice: Giordano, devi sentire anche i contrari, non solo a questa ministra pagata dalle scuole cattoliche, al di là di cui sia pagata la ministra, ma comunque soltanto l'altro ieri c'era il sindacalista della CGIL Pantaleo, e spessissimo qui a Effetto Notte ci sono i sindacalisti anche del settore scuola. E poi altra notizia è la Grecia, di cui parleremo tra poco. Intanto siamo all'appuntamento con l'Europa. Europa 24. Parliamo di latte in polvere. Il via libera al latte in polvere farà sparire 487 formaggi tradizionali, secondo Coldiretti, che continua a protestare contro la richiesta della Commissione europea di mettere fine al divieto di utilizzo di latte in polvere previsto da una vecchia legge italiana del 1974. Intanto a Bruxelles si studia l'ipotesi di una etichettatura obbligatoria sui formaggi. Basta un chilo di polvere di latte per produrre 15 mozzarelle o 64 vasetti di yogurt, tanti sì, ma tutti con lo stesso identico sapore, da nord a sud Italia, denuncia Coldiretti, che ha portato in piazza a Montecitorio allevatori e produttori per dire no alla possibilità di utilizzo di polveri per i formaggi, utilizzo vietato in Italia da oltre 40 anni. Una possibilità richiesta in realtà da alcune aziende italiane lattiero-caseari e sollecitata da un europarlamentare leghista nel 2013 con una interrogazione parlamentare alla Commissione europea, il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo. Vuol dire aprire alle frodi, vuol dire cancellare la distintività, la qualità e il gusto dei formaggi italiani, vuol dire ingannare i consumatori che quando comprano italiano si aspettano un formaggio fatto solo di latte fresco, e soprattutto vuol dire mettere a rischio un patrimonio di oltre 36.000 stalle e 180.000 posti di lavoro. Un sistema di etichettatura che indichi il formaggio se è fatto con il latte in polvere o meno potrebbe risolvere. La battaglia sull'etichettatura è una battaglia sempre aperta e che è la battaglia di Coldiretti sul latte come su qualsiasi altro settore, ma qui stiamo parlando di qualcosa di più, stiamo parlando di un pezzo di industria italiana che vuole continuare a sottopagare il latte agli agricoltori italiani e a vendere invece col prezzo alto della qualità italiana un prodotto che è etichettato Made in Italy ma che non ha niente a che vedere né con le nostre stalle né con i nostri territori né con quello che i consumatori italiani vogliono, e c'è un prodotto distintivo di alta qualità. Per fare formaggi di alta qualità serve il latte fresco italiano. Se passasse la linea europea, e cioè la fine del divieto di latte in polvere, il vero problema diventerebbe quello della trasparenza. È per questo che se la battaglia dovesse essere persa, l'Italia punterà almeno ad avere un sistema di etichettatura obbligatoria sui prodotti che indichino la provenienza, se da latte fresco o in polvere. Un sistema sul quale si sta già lavorando a Bruxelles, ma gli allevatori su questo sono divisi. Produciamo Asiago. E quindi col discorso del latte in polvere non si può assolutamente. Un'etichetta obbligatoria che indichi se il formaggio è stato fatto con il latte in polvere o è stato fatto con questo il latte sarebbe... in polvere, questo potrebbe tutelarvi? Esatto, questo potrebbe essere utile, è quello che noi chiediamo. Ma una volta che ci sta, è il più fesso va a comprare, è normale, no? Al McDonald's chi ce va? Ci dovrebbe andare nessuno, perché le peggio cose stanno al McDonald's, è inutile se giriamo attorno. Non viene a prendere il latte nostro. Alcuni allevatori hanno detto no, l'etichetta ci potrebbe salvare. No. Io alla Befana non ci credevo quando ero ragazzino, figuriamoci adesso. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. E dopo la Befana, il latte in polvere, c'è un ascoltatore che chiede: Roberta, ma c'è anche Galan tra coloro cui è stato revocato il vitalizio? No, per il momento nella lista dei ex deputati condannati in via definitiva non c'è Galan. Adesso invece c'è l'attesa per il piano di Tsipras del governo greco da proporre ai creditori. Non so, Vittorio Darold da Atene, tu hai notizie, Vittorio? Sì, guarda, le notizie sono che il piano da 8 miliardi probabilmente sarà di 12, cioè è cresciuto a 12 miliardi, perché nel frattempo queste due settimane di incertezza hanno fatto precipitare il PIL greco di almeno il -2 o -3%, e quindi per riportare tutti i conti in ordine ci vuole una manovra di austerità maggiore. Il secondo punto è che i dettagli ancora non si conoscono, ma il governo ha deciso di mettere alcune azioni prioritarie, le più importanti di queste riforme, già domani in Parlamento, quindi giocherebbe di anticipo Tsipras rispetto all'approvazione della Commissione dei creditori, per avere subito, dare un segnale di disponibilità, di questa volta di grande volontà di approvare comunque delle riforme addirittura prima della via libera da parte dei creditori. Quindi è una situazione abbastanza, diciamo così, in movimento. Senti, le principali riforme quali sarebbero? Io ho letto l'aumento dell'IVA, imposte sulle società, le baby pensioni effettivamente vengono eliminate? Sì, esatto, esattamente. Le baby pensioni, che erano queste parte che rimaneva ancora di poter andare in pensione anticipata, verrebbero eliminate. Quindi ci sono tutta una serie di manovre che erano già conosciute. Lo scontro probabilmente sarà ancora su questa problematica dello sconto del 30% per l'IVA sulle isole, che qui è una questione di bandiera, perché appunto vivere nelle isole, quelle più lontane, quelle naturalmente che non sono quelle più famose per il turismo, per tutto l'anno, per 12 mesi, naturalmente tutti i prodotti che vengono trasportati lì costano di più, e quindi ci sarebbe questa compensazione che viene fatta attraverso, evidentemente si può trovare altre forme di compensazione, ma insomma i greci stanno cercando di mantenere questa cosa, ma stiamo parlando di dettagli in questo momento, perché non penso che si rischi di arrivare a una rottura su una questione così marginale e minimale, a livello di stiamo parlando di 200-300 milioni su un totale di piani di aiuti di 240 miliardi, a cui se ne dovrebbero aggiungere altri 60-70 miliardi. La cosa interessante oggi, che ha creato un po' di polemica e non si sa quanto poi magari voluta d'arte, è che Schäuble ha risposto, ministro delle finanze tedesco, sì? Sì, ha risposto al segretario del tesoro americano Liu, dicendogli: facciamo cambio, prenditi la Grecia e io mi prendo Porto Rico, che anche Porto Rico ha 72 miliardi di debito. Qui naturalmente in Grecia la cosa ha scatenato polemiche, dicendo che Porto Rico non fa parte degli Stati Uniti, l'Europa fa parte, la Grecia fa parte dell'Europa, e soprattutto Schäuble non è il ministro delle finanze dell'Europa. E qui si è aperta un'altra polemica con Schäuble, che insomma non ha molti estimatori ad Atene. È chiaro. Grazie Vittorio Darold. Ciao Vittorio, poi grazie, ci sarà a voi, modo di aggiornarsi, questa storia infinita. Intanto vedevo che il capo dell'FBI americano ha detto che sono stati sventati degli attentati per il 4 luglio, sapete che festa nazionale negli Stati Uniti, e adesso vedevo che il nuovo leader di Al-Qaeda in Yemen esorta a colpire proprio negli Stati Uniti, tanto per stare un po' in allegria. Queste sono ultime notizie che stanno arrivando, ma poi le altre sempre in primo piano, reso conto delle notizie principali, lo do come al solito alle 22:00.